Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sapete, uno dei tasti sui quali batto molto è quello relativo alle barriere, agli anticorpi che si formano sempre più prepotentemente, ringraziando Dio, nel nord contro il virus mortale e velenoso delle mafie. Sapete che ne abbiamo parlato spesso, spessissimo, e abbiamo parlato abbastanza spesso anche di protocolli di legalità seri per combattere questo fenomeno. L'abbiamo fatto recentemente ad esempio con Imperia, lo abbiamo fatto con molte province del sud. Oggi mi fa piacere affrontare questo tema della collaborazione tra più parti con Confindustria Veneto. Perché con Confindustria Veneto? Perché l'11 febbraio a Padova, che possiamo un po' dire la capitale morale del Veneto, è stato firmato un protocollo di legalità fra appunto Confindustria Veneto e il Ministero dell'Interno tramite la Prefettura. Per parlarne noi abbiamo il vicepresidente di Confindustria Veneto, già presidente di Confindustria Padova, il dottor Francesco Peghin. Buongiorno Peghin. Buongiorno a voi. Allora, qual è il significato di questo protocollo di legalità? È un atto burocratico oppure nel concreto scende poi in quelle che sono le armi a disposizione per arginare il fenomeno della penetrazione delle mafie? No, credo che sia un atto concreto, una sorta di sfida che è quella di cercare di compiere un passo avanti per riuscire a innalzare i livelli di legalità e di trasparenza dove operano le imprese venete, perché si avverte chiaramente anche dalle nostre parti un rischio che con gli effetti della crisi si possa essere un aumento di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Assolutamente. Voi, ho visto che nel vostro comunicato stampa richiamavate anche il grido d'allarme di Stefano Pellicciari, presidente regionale del Lance, che noi abbiamo avuto nostro ospite proprio per parlare di queste tematiche. Peghin, quali sono i settori secondo lei all'interno dei quali è più, come dire, facile la penetrazione delle mafie? Anche da voi in Veneto, ad esempio, è il settore del movimento terra, quello che ruota intorno all'edilizia, oppure ci sono, come stiamo guardando recentemente qui in Lombardia, settori nuovi come la logistica, come la grande distribuzione? Ma bisogna partire dal fatto che non ci risultano ancora, quantomeno a livello di Confindustria, l'associazione che rappresento, numeri rilevanti di situazioni di questo tipo. Direi, per esempio, a Padova noi non avevamo avuto segnalazioni, però chiaramente nei settori che ruotano attorno all'edilizia questo è un qualcosa di più rischioso, ma penso anche altri settori come quelli del turismo, che in qualche modo possono avere, trattando immobili eccetera, a che fare con questo tipo, certo, di problematiche. Certo, ecco una curiosità, dottor Peghin, i suoi colleghi imprenditori e industriali, quando voi avete proposto questo protocollo di legalità, l'hanno e vi hanno preso per dei visionari, dei pazzi, dei realisti, delle persone intelligenti e avanti nel combattere questo fenomeno? Qual è stata, insomma, la reazione dei suoi colleghi? No, credo ci sia stata attenzione e sensibilità verso questi temi. Credo anche che molto abbia, a questo scopo abbia contribuito la battaglia fatta dalle Confindustrie del Sud, con azioni molto coraggiose che sono state, credo, ammirate dai colleghi, certo, locali. E, come dire, il pensiero in una crisi così forte come questa che stiamo vivendo, che questo tipo di dinamiche possano cominciare ad accadere anche da noi, è certamente presente nei nostri, certo, imprenditori. Ecco, vuole dirlo lei qual è la sanzione massima che è prevista per coloro i quali, suoi colleghi, quindi imprenditori, dovessero essere colti con le mani, diciamo così, nel sacco? Beh, bisogna dire che questo tipo di accordo è assolutamente volontario sia per le associazioni territoriali di rappresentanza che delle singole imprese. La sanzione massima è chiaramente quella dell'espulsione, certo, dall'associazione nel caso di condanna con sentenza passata in giudicata per reati come l'associazione mafiosa e simili. C'è questo certo dovere, come c'è il dovere, aderendo a questo protocollo, il dovere di denunciare se si subiscono estorsioni. Qualunque tentativo di intimidazione o ancor peggio. Io ringrazio per questa sensibilità gli imprenditori del Veneto, segnatamente nella figura del vicepresidente di Confindustria Veneto, Francesco Peghin. Dico grazie in regia a Roberto Scaltritti e in redazione a Laura Faggin. E Roberto Galullo vi augura una buona giornata.